carrick salde la guardia che chi tauro nella head osca iuda io a pensare anzi frescura frescura io a pensare anzi frescura frescura. Mañana.